Sound check, il suono della musica di Gigi Telesforo. Eccoci, buona domenica, puntualissimi come sempre dal Groove Master Studio. Buonasera a tutti da Gigi Telesforo e buona domenica ai miei compagni di avventure sonore e musicali, l'ingegnere del suono Riccardo Bomarzi. Buona domenica. Buona domenica anche a te Riccardo e buona domenica all'esperto di comunicazione multimediale Francesco Tromba. Ciao a tutti. Come annunciato nella puntata di ieri in chiusura, oggi dedichiamo la nostra trasmissione a uno dei musicisti di riferimento della discografia e della musica americana di oggi, un musicista che suona uno strumento, come dire, un po' dimenticato nel mondo, anche se la tradizione parte proprio dall'Italia, ovvero la tradizione di uno strumento chiamato mandolino, uno strumento meraviglioso. Sì, uno strumento che spesso in realtà viene appunto accomunato solo ed esclusivamente alla musica napoletana, in un certo senso l'ambasciatore vero e proprio della musica napoletana. Invece Cristilli non lo utilizza solo ed esclusivamente in chiave folk, ma esplora tutte le potenzialità di questo strumento. Io ho visto Cristilli dal vivo in coppia con Brad Mehldau, potete immaginare che concerto, forse ne abbiamo già parlato qui al Soundcheck, un concerto meraviglioso, e mi ha sorpreso molto l'abilità di Cristilli, non solo musicalmente sul suo mandolino, perché lo utilizza in vari modi, non solo per fare i temi, per fare i contrappunti, ma si lascia andare anche a soli tecnicamente complessi e ritmicamente lo utilizza in modo spaventoso, ma neanche anche un chitarrista ritmico super soul farebbe quello che riesce a fare Cristilli sul mandolino, che tra l'altro utilizza un mandolino che non è quello napoletano, ma un mandolino americano, quindi non è panciuto come quello napoletano, ma il mandolino americano ha una cassa armonica che ricorda una piccola chitarra o anche un violino. E tra l'altro la produzione dei mandolini negli Stati Uniti in qualche modo è stata avvantaggiata proprio dalla presenza degli italiani che in famiglia e nelle barberie utilizzavano questo strumento, e quindi nacquero le prime industrie locali, fino a quando non spuntò fuori un marchio importante anche per le chitarre come la Gibson, che iniziò a produrre il mandolino americano. È lo strumento di Cristilli. Cristilli torna discograficamente con un album nuovissimo intitolato Thanks for Listening, quindi dopo l'esperienza fatta con i Punch Brothers arriva finalmente con un album a suo nome. Ha naturalmente lavorato con Brad Mehldau, è uscito anche il disco intitolato semplicemente Cristilli Brad Mehldau, poi ascolteremo qualcosa, ma l'album di Cristilli, questo Thanks for Listening, è meraviglioso, tra l'altro concepito durante la realizzazione del suo programma radiofonico, quindi è un nostro collega. Sì, è un nostro collega, io non lo sapevo perché ancora non l'avevo scoperto. Tra l'altro lui conduce questo programma per una radio del Minnesota, una radio locale che poi è diventata anche nazionale, ed è un programma di varietà, nel senso succedono tante cose, come un po' se fosse, diciamo, il Carlo Conti della radio, potremmo dire. Sì, il programma si intitola A Prairie Home Companion, e in questo programma naturalmente Cristilli incontra un sacco di amici, alcuni dei quali poi se li ha portati dietro nella realizzazione dell'album. La cosa bella è che lui ha scritto per ogni puntata, scrive una canzone, quindi la chiama The Song of the Week, la canzone della settimana, e quindi noi ci ritroviamo questo album con tutti i brani che lui ha scritto per questo programma. Dovremmo farlo anche noi. Magari. Potremmo no. Farlo. Allora, io direi di ascoltare subito il brano che mi ha colpito di più, è proprio una gioia ascoltare questo brano che si intitola Elephant in the Room, un elefante nella stanza, e lui è Cristilli, l'album è troppo, il brano è troppo forte. Ed è dedicato anche al periodo del Thanksgiving. Eh sì, un vero genio, Chris Thiele, con il suo mandolino americano, album recentissimo pubblicato un paio di giorni fa dalla Nonesuch, questa è la casa discografica distribuita Warner in tutto il mondo. Album bellissimo, si intitola Thanks for Listening, proprio per il fatto, come abbiamo detto prima, che è stato concepito durante la produzione del suo programma radiofonico. E Chris Thiele è anche un cantante eccezionale, Francesco. Eh sì, oltre a questo è anche considerato un vero e proprio genio nel suo campo. Certo. Nel senso che nel 2012 ha vinto questo premio che si chiama MacArthur Fellows Program, che sarebbe praticamente un premio che viene dato solo ed esclusivamente a circa 20-30 persone massimo durante l'anno, e consiste appunto nel finanziare questi personaggi che grazie appunto a questa specie di borsa di studio riescono anche ad andare avanti nel produrre quello che loro, che viene riconosciuto come appunto il campo di loro competenza. Quindi quello di Chris Thiele ovviamente è quello della composizione musica, della musica. Della musica. Lui ha ottenuto questo premio nel 2000, hai detto? Nel 2012. Quindi 5 anni fa, 36 anni, a 31 anni Chris Thiele, pur avendo già una carriera fatta, in stato avanzato, quindi con i suoi introiti discografici e concertistici, si è beccato anche la bella somma di $500,000. Ai tempi era ancora di 636,000, poi è stata diminuita dal 2013, rientra nell'ultimo anno dei 600,000. Quindi ha preso i 630,000. Sì, per esatto. Bacco. Complimenti Chris Thiele. Allora, poi parleremo anche della moglie. Sì. Ne ha avute due. Vabbè. Va bene. Allora, ascoltiamo invece Chris Thiele con un'altra band formidabile, i Punch Brothers, band di riferimento per tutti gli appassionati del bluegrass. Ma ecco, a volte quando noi parliamo di folk e bluegrass americano o di country music, qualcuno può anche storcere il naso. Invece, la musica che fanno i Punch Brothers è da studiare, perché quello che fanno è incredibile. The Punch Brothers, Julep, il brano da Phosphorescent Blues del 2015 per Chris Thiele. Soundcheck, il suono della musica di Gegé Telesforo. Feedback Loop, il titolo di questa composizione di Chris Thiele, oggi protagonista del nostro soundcheck, visto che è stato pubblicato da un paio di giorni questo album spettacolare intitolato Thanks for Listening. Certamente non è un brano di R&B, non è un disco di R&B, non è un disco di soul, non è un disco di jazz, ma è un disco che rappresenta al 100% la musicalità e la genialità di quello che oggi è riconosciuto negli Stati Uniti come un vero e proprio genio della musica, ovvero Chris Thiele. Basta pensare che la prima band che ha messo su, che era una band composta da suo padre e altri due ragazzi che erano suoi vicini di casa ai tempi, era una band come i Punch Brothers, comunque una band di musica folk, hanno vinto addirittura un Grammy Award. Pensate, quindi giovanissimo, sì, ha beccato il Grammy Award. Sì, 1999. Comunque il successo non arriva mai per caso, quando si tratta di personaggi così. Cioè, se ha successo nella musica, ma anche nella vita, è proprio perché si merita questo e altro. Vederlo sul palco, vederlo in azione, questo ragazzo vestito in maniera proprio anche un po' sgualcito, ecco, proprio da campagnolo americano. Sono saliti sul palco lui e Brad Meldau vestiti come se dovessero andare nel parco la domenica con il cane e i figli. Diciamo che Brad Meldau si potrebbe vestire un po' meglio, quello lo diciamo da un po' questo di tempo. Lo diciamo a molti sì. Musicisti anche italiani, però è stato bellissimo vedere Chris Thiele con parte della camicia fuori dai pantaloni, fuori dal jeans, e lo vedevi lì saltare, si muoveva come un pazzo con il suo mandolino e soprattutto cantava benissimo. Oggi vi parliamo di Chris Thiele, che tra l'altro ha anche avuto due matrimoni. Sì, ha avuto due matrimoni. Il primo non è andato proprio benissimo, nel senso che è durato molto poco. Se ne ha avuti due, il primo senz'altro non è andato bene. Nel senso che è durato anche molto poco, è durato un anno e mezzo, 18 mesi. Invece il secondo... 18 mesi intensi. Sì. Sì. Invece il secondo è stato con un'attrice anche abbastanza famosa, si chiama Claire Coffey, ha fatto diversi episodi anche di CSI, di NCIS. Ma è carina Claire Coffey, una gran bella ragazza, con cui ha avuto anche un figlio che si chiama Kelvin Eugene. Eh sì, bravo nella musica, bravo nella vita, Chris Thiele, protagonista del nostro soundcheck. Allora, visto che parlavamo di questo nuovo album pubblicato da Chris Thiele con Brad Meldau, ci insomma qualche mese noi già lo abbiamo presentato qui al Soundcheck, ma dovendo raccontarvi la musica e il talento di questo formidabile ragazzo 36enne, mi sembra il caso di ascoltare ancora una volta Don't Think Twice, It's Alright. Questa è una composizione di Bob Dylan e naturalmente quando l'hanno fatta dal vivo a Milano, lì al Teatro del Verme, siamo impazziti, eccezionali, e poi è forte anche perché c'è Brett Meldau che canta per la prima volta discograficamente. Eccoli qui. Soundcheck, il suono della musica, di Gegè Telesforo. E anche questa è una pubblicazione recente con protagonista Chris Steele, affiancato da due compagni di avventure musicali, altri due talenti infiniti, il violoncello di Yo-Yo Ma e il contrabbasso di Edgar Meyer. Quando si mettono insieme questi sono sorprendenti, e qui rileggono con questa formazione naturalmente intitolata Bach Trios alcune composizioni sonate di Johann Sebastian Bach. Naturalmente questa era la sonata in sol 530, andamento incredibilmente vivace per questi tre protagonisti della musica internazionale. È tra l'altro Bach passione che aveva già da tanto tempo Chris Steele, nel senso che gli aveva già dedicato un disco in solo in cui aveva riletto, e noi lo abbiamo anche presentato al Soundcheck, riletto le partiture di Bach in solo, praticamente in solo. E infatti è incredibile perché lui ha praticamente trascritto per quell'occasione il quartetto d'archi, i brani scritti da Bach per il quartetto d'archi, le ha riportate tutte sul mandolino. Quindi è un professorone. No, è spaventoso, è sì, veramente una cosa spaventosa paura. Quello che riesce a fare Chris Steele sul mandolino, ma credo che anche con qualsiasi altro strumento, adesso non so, ma sicuramente se mette le mani sul pianoforte, cioè... scarso non sarà. No, sono sicuro di no. È stato anche molto bello perché io andai proprio in quell'occasione, eravamo in giro con Becca Stevens che faceva i concerti in Italia, e quindi io mi sono ritrovato lì in teatro con Becca Stevens, ed è stato molto forte vedere Becca Stevens quasi intimidita dal talento di Chris Steele e Brett Meldau. Comunque siamo in chiusura, noi vi garantiamo che questo album che vi stiamo presentando, Thanks for Listening, è meraviglioso, e quindi proprio con la title track di questa produzione anche noi vi ringraziamo per l'ascolto, per la fiducia e per la fedeltà che ci donate tutte le settimane. Noi ci risentiamo sabato prossimo a partire dalle 19:15 qui dal Groovemaster Studio di Radio 24. Grazie a Riccardo Bomarzi, grazie a Francesco Tromba, grazie a Chris Steele. Thanks for listening. Grazie a tutti.